La redazione della Caccia è lieta di assegnare il premio Ponzio Pilato 1993 ai 165 senatori della Repubblica 165, su un totale di 326, che non sono andati a votare, ripeto, non sono andati a votare, la nuova disciplina delle campagne elettorali, quella in cui è abilmente inserito un articolo che, senza dirlo, depenalizza la percezione di contributi sottobanco, con la unica condizione che siano percepiti a scopo di campagna elettorale, offrendo una comodissima via d'uscita a gran parte degli attuali inquisiti, cui d'ora in poi basterà presentare come contributi elettorali regolari tutte le tangenti che sono accusate di aver incassato. La legge in questione è stata approvata dal Senato con 139 sì, 19 no e 3 astensioni, e per un totale di 161 senatori. I residui 165 evidentemente erano favorevoli alla legge, perché altrimenti nulla avrebbe potuto impedirgli di votare contro, ma sono restati a casa, presumibilmente di autoassolversi, si sono vergognati. Noi personalmente ci vergogniamo di essere rappresentati da cotali sepolcri imbiancati. Il premio speciale per la stampa va ex aequo al manifesto, che presumibilmente, in considerazione del fatto che tra le forze favorevoli alla legge in questione compariva il PDS, ha dato la notizia in due righe e mezzo sotto un titolo riferito a un'altra votazione parlamentare, e ex aequo all'Indipendente, che ha pubblicato in prima pagina un titolo a 8 colonne sul come il Senato abbia respinto un emendamento della Lega Nord, ma si è dimenticato di precisare che al testo non emendato la stessa Lega Nord ha dato la sua benevola approvazione. Morale: non date retta ai giornali, ragazzi, il regime avanza.